It's time now to hear the complete scene at Florence Airport, from the moment Lorenzo introduces himself to Sarah to the moment they set off for Sarah's hotel. All'aeroporto di Firenze. Scusi, lei è della Top Qual? Top Qual, yes. Allora, è la signorina Jenkins, vero? Yes, that's me. Buonasera e benvenuta a Firenze. Sono Lorenzo Conti, di Italia Bella. Italia Bella? Oh, yes, of course, I'm sorry. What did you say your name was? Mi chiamo Lorenzo Conti. Lorenzo Conti? Esatto, Conti. Do you speak English? Sì, un po'. A little. Good, because I don't speak Italian. Per niente? Not at all? Not a word, I'm afraid. Va bene, non importa. L'italiano è facile, per fortuna. I'm sorry, but I don't understand. Don't understand. Ah, si dice non capisco. Non capisco, I don't understand. Capisco, I understand. Ok, I understand. Capisco. Brava! Italian is very easy, signorina Jenkins. Ma come si chiama di nome? What is your first name? Sarah. Sarah? Ah, sì, Sara. Allora, piacere, Sara. What does that mean? Che significa? Significa pleased to meet you. Piacere. Piacere, Lorenzo. Ha fame? Vuole mangiare qualcosa? Are you hungry? Oh, no thanks. I'm a bit tired. Ah, scusi. Sì, è stanca. Andiamo all'albergo. To the hotel. Yes. How do you... come si dice thank you? Si dice grazie. Then, grazie. Grazie. Di niente. È questa la sua valigia? Your suitcase? Sì, grazie. Andiamo.